sono le 13. GR24, il sole 24 ore. I racconti di Ruby sulle cene a casa di Berlusconi, il premier da Bruxelles si dice tranquillissimo. Giustizia, i PM sottomessi al governo, era così nel fascismo, dice Fini, grave tornarci. Disoccupazione all'8,3% in settembre, più di un giovane su quattro è senza lavoro. Occorre concentrarsi molto su questo tema, commenta la Marcegaglia. Un festival del cinema di Roma all'insegna delle proteste per i tagli, non piace il film sulla scuola con l'Agolino. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano l'avete sentito, l'inchiesta e le polemiche politiche sul caso Ruby. Berlusconi si dice assolutamente tranquillo. È da Bruxelles che Silvio Berlusconi torna a parlare del caso Ruby. Sono tranquillo, ha ripetuto stamattina il premier, che nella notte, incalzato dai giornalisti che lo aspettavano sotto il suo albergo, ha risposto così ad una domanda sulla telefonata alla questura di Milano dove la 17enne era in stato di fermo per un furto. C'è stata una telefonata per trovare una persona che potesse rendersi disponibile all'affidamento di una persona che ci aveva fatto a tutti molta pena perché ci aveva raccontato una storia drammatica a cui tutti avevamo dato credito. Pur confermando un intervento, Berlusconi dunque minimizza, come tutta la maggioranza, su una vicenda che alimenta invece nuovi attacchi dall'opposizione. Se le pressioni di Palazzo Chigi sulla questura di Milano venissero confermate, Berlusconi dovrebbe dimettersi, insistono il Partito Democratico e l'Italia dei Valori, che non esclude di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del premier. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ed ora l'inchiesta con Raffaella Calandra. Sì, buongiorno. Ci sono gli estremi per un abuso d'ufficio? E questa è una delle domande centrali dell'affare Ruby. I PM vogliono capire se ci siano gli estremi di reato in quella telefonata arrivata alla questura di Milano per favorire il rilascio della minorenne marocchina fermata per furto a maggio. La procedura non è stata alterata da alcun intervento esterno, hanno già assicurato dagli uffici della polizia milanese ieri, ma i PM su questo sentiranno gli agenti in servizio quella sera, così come ascolteranno le persone citate negli interrogatori contraddittori della stessa ragazza, ossia gli altri testimoni, quelli presenti alle feste ad Arcore, i tre indagati, a cominciare anche dalla Minetti, che avrebbe ospitato la ragazza una volta uscita dalla questura di Milano, e così come andranno a verificare la sua versione anche sui regali e sui soldi presi per la presenza a quelle feste, 5.000 euro per ogni partecipazione, oltre ai regali preziosi come una collana di diamanti e un Audi. E per ora è tutto. Grazie a Raffaella Calandra. E oggi vi chiedevamo nel sondaggio se, come dice Berlusconi, siamo di fronte a spazzatura mediatica sul caso Ruby. Ebbene, il 40% di voi ha risposto di sì, il 60%, dunque la maggioranza, ha risposto di no. È tornato sui temi della giustizia da Bari il presidente della Camera Fini. Per aumentare la fiducia dei cittadini nei confronti dei magistrati e per dare anche effettiva e ulteriore attuazione al giusto processo, non credo che sarebbe motivo di scandalo dar vita ad una riforma che separi le carriere tra magistrati requirenti e giudicanti. Da farsi però, quella riforma, senza rinunciare in alcun modo all'indipendenza della magistratura, anche relativamente ai pubblici ministeri. Sarebbe un errore grave ritornare, magari in modo indiretto, senza dichiararlo, alla soggezione del pubblico ministero all'esecutivo, come era ai tempi del fascismo, assetto ordinamentale che non a caso fu immediatamente superato dalla Costituzione repubblicana. La pagina economica con i dati Istat di giornata, il tasso di disoccupazione a settembre sale all'8,3% dall'8,1% di agosto, il tasso di disoccupazione giovanile sale al 26,4% dal 25 di agosto. Il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia al microfono di Alessandra Schepisi. Importante, noi da tempo richiamiamo tutti a concentrarsi sui temi dell'economia, della disoccupazione, che sono i temi veri. Noi abbiamo un problema importante. La prima soluzione è cercare di tornare a crescere, perché se le aziende non riescono a tornare ad avere mercato e a crescere non si crea occupazione. E poi bisogna lavorare appunto sugli ammortizzatori in deroga, sulla formazione, sulla domanda e offerta di lavoro che si devono incontrare meglio. Insomma, ci vuole una grande concentrazione su questo tema della disoccupazione, che poi è il tema più importante. E di stamattina anche dati sull'inflazione. L'inflazione a ottobre accelera un po', portandosi all'1,7%. L'aumento dei prezzi al consumo, stimato oggi dall'Istat, è dello 0,2% rispetto a settembre. Nei grandi capitoli di spesa, aumenti mensili vistosi sono segnalati per bevande alcoliche e tabacchi, più 1,6%. Entrando nel dettaglio del paniere, i prezzi dell'istruzione universitaria segnano più 3%, le assicurazioni più 6,8% rispetto a un anno fa. La benzina verde arretra in un mese dello 0,6%, comincia a rialzare la testa il gasolio da riscaldamento, più 0,4%. L'Istat stima anche una ripresa dei prezzi dei prodotti alimentari. Sentiamo il presidente della Coldiretti, Sergio Marini. Ma un aumento dei prodotti alimentari, l'Istat da un 0,6 su base annua rispetto all'indice generale di 1,7, significa che comunque sono aumenti molto più contenuti rispetto agli aumenti che ci sono generalmente. Devo dire che c'è invece, è significativo, un aumento di alcune materie prime, ma siamo a livelli, soprattutto i cereali, ma siamo a livelli comunque molto inferiori a quelli del 2008. Giovanni Bracco, da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo alla cronaca. Vi ricordate le operazioni fatte solo per guadagnar soldi alla clinica Santa Rita di Milano? Ora sono arrivate le condanne. Questo mese gli faccio 4 polmoni, sono per loro 44.000 euro, che non vedono neanche morti. Poi facciamo il conto a fine mese. Operavano i pazienti solo per gonfiare i rimborsi da chiedere al Servizio Sanitario Nazionale. 2 anni fa, il 9 giugno 2008, era scoppiato lo scandalo della clinica milanese Santa Rita. Questa notte l'ex primario Pierpaolo Brega Massone è stato condannato in primo grado a 15 anni e mezzo di carcere. I suoi vice Pietro Presici e Marco Panser rispettivamente a 10 anni e a 6 anni e 9 mesi, condanne minori ad altre 5 medici. La Corte ha anche fissato risarcimenti che vanno dai 50.000 ai 70.000 euro nei confronti delle parti lese, in tutto quasi 2 milioni di euro, perché le parti lese purtroppo sono molte. Secondo l'accusa, i medici hanno effettuato ben 83 interventi chirurgici inutili, che in alcuni casi hanno provocato danni permanenti. In 4 occasioni i pazienti operati morirono pochi istanti dopo essere usciti dalla sala operatoria. Ma di questa accusa Brega Massone, che ora si definisce il capro espiatorio di una situazione più ampia, dovrà rispondere nel corso di un'altra inchiesta tuttora in corso. Alice Cason, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La morte di Sara Scazzi smentisce Valentina Misteri la notizia che la sua famiglia abbia preso soldi per alcune interviste. Intanto basta con telecamere morbose e la presenza ossessiva di giornalisti ad Avetrana. Così questa mattina il sindaco di Avetrana, Mario De Marco, al microfono di Alessandro Milan. Ma noi abbiamo fatto tramite la Polizia Municipale un invito a tutte quelle emittenti televisive, ai fly, cosiddetti, cioè che soffrono da 2 mesi vicino alle case, prima degli Scazzi e poi dei Misteri, di coniugare, cioè di trovare una soluzione che meglio coniughi il diritto di cronaca con il diritto anche dei vicini o delle persone di vivere normalmente. Però li abbiamo spostati in un'area adiacente molto più spaziosa e più larga. E così non abbiamo sempre quello sfondo. Quando andranno via, perché si spegneranno prima o poi i riflettori, insomma, questo le dispiacerà? Non mi dispiacerà, perché comunque noi pensavamo a cadere prima. Sicuramente ormai dopo 2 mesi si è creato quasi un rapporto di amicizia sia tra i giornalisti che la cittadinanza tutta. A me non dispiacerà quando questa finestra sarà chiusa, mi auguro che avvenga quanto prima. Non sono tra quelle che si indignano per la presenza dei giornalisti, è da circa 7, 8, 10 giorni forse che non seguo più la televisione. Quindi una persona qualunque, se è indignata, se è scandalizzata, può anche usare il cosiddetto telecomando e guardare altro. Ed ora tiriamo un po' il fiato, sentiamo le ultime dal Festival del Cinema di Roma. Speciale Festival del Cinema di Roma. Buongiorno da Marta Cagnola e dal Festival Internazionale del Film di Roma. Ieri la serata della protesta sul red carpet, oggi si tenta di riportare l'attenzione anche sui film. È il giorno di Valerio Ialongo con La scuola è finita. Ieri sera tiepida accoglienza nell'anticipata stampa, oggi le proiezioni ufficiali. È il primo film italiano in concorso, film che come gli altri verrà esaminato dalla giuria diretta da Sergio Castellitto, che ieri ha parlato anche delle proteste alle quali ha aderito. Ma penso che sia un'opportunità il fatto che io sia il presidente della giuria del festival, mi permette, non mi impone, ma mi permette di essere uno dei megafoni di questa protesta, che considero una protesta legittima, perché altrimenti non lo farei, sacrosanta e, come dire, forte ma pacifica naturalmente, che non toglie nulla all'importanza di questo festival, che non toglie nulla al clamore e al glamour che ci deve essere dentro una festa del cinema. E quindi insomma è un modo per contribuire al successo finale di questa manifestazione, di questa protesta, di questa, ripeto, che considero assolutamente legittima. Però non voglio, ecco, voglio anche che il festival, come dire, segua il suo corso, segua anche il suo corso di gioia e di festa per il cinema, ecco. La protesta ha cancellato il red carpet di The Last Night, una delle non moltissime occasioni di glamour di questo festival, con la presenza di Keira Knightley e di Eva Mendes. Il cast è comunque apparso per qualche istante nella cave occupata per manifestare solidarietà. The Last Night, thriller sentimentale in cui Keira Knightley e Sam Worthington in una notte dovranno decidere se tradirsi oppure no. It was a wonderful experience making this film. I think we discussed that a lot. Obviously that's the theme of the movie. È stata un'esperienza meravigliosa fare questo film e abbiamo discusso molto moltissimo sui temi prima di girarlo, spiega la Knightley. Abbiamo parlato dell'infedeltà e non siamo arrivati a una conclusione se è meglio il tradimento mentale oppure quello consumato. Insomma, la questione è troppo complessa. Ben più chiaro invece il successo planetario delle Winx. A Roma è stato presentato il nuovo film dal loro creatore, Iginio Straffi. Noi siamo molto orgogliosi, devo dire, alla Rainbow di portare insomma un po' questa bandiera dell'Italia in giro. Il film delle Winx comunque sia il primo che uscì in 43 paesi, mi sembra, che il secondo, lo stesso l'abbiamo già prevenduto praticamente in tutta Europa. Insomma, ci fa sentire sicuramente molto orgogliosi di quello che facciamo, perché non ci sono molti prodotti italiani televisivi e cinematografici che poi vengono visti all'estero. Per noi è una passione, un piacere fare e raccontare queste storie. Poi chiaramente vedere che dall'Asia agli Stati Uniti ci sono bambini che guardano le Winx o altre cose che facciamo, sicuramente ci riempie un po' d'orgoglio e mi piacerebbe che fossero orgogliosi anche per una volta gli italiani. E dal Festival di Roma per ora è tutto. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato dei racconti di Ruby sulle cene a casa di Berlusconi, il premier. Da Bruxelles però si dice tranquillissimo. E poi il capitolo giustizia, PM sottomessi al governo, era così nel fascismo, dice Fini, grave sarebbe tornarci. La disoccupazione all'8,3% in settembre secondo l'Istat e più di un giovane su quattro è senza lavoro. Corre concentrarsi molto su questo tema, commenta la Marcegaglia. E ripartiamo dal Consiglio europeo che si conclude in questi minuti in diretta da Bruxelles. Sergio Nava. Sì, buongiorno da Bruxelles, dove il Consiglio europeo si è concluso proprio pochi minuti fa. Di fatto i maggiori risultati erano stati già raggiunti nella notte, quando è stato deciso di dare mandato al Presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy di elaborare delle proposte per una riapertura del Trattato di Lisbona per poter rendere permanente il fondo di salvataggio europeo messo a punto dopo la crisi greca. Invece saranno rimandate, secondo quanto detto da Juncker, il Presidente dell'Eurogruppo, alle calende greche le proposte di Angela Merkel per delle sanzioni politiche, proposte che avevano tenuto banco negli ultimi giorni. E novità degli ultimi minuti, il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi avrebbe sottoscritto questa mattina la proposta di David Cameron di ridurre al 3% circa l'incremento del budget comunitario per il 2011. Altre cose, c'è l'appello al G20 dei 27 che chiedono di evitare tendenze protezionistiche e anche di evitare manipolazioni sui cambi per obiettivi di competitività a corto raggio. Grazie, grazie a Sergio Nava da Bruxelles. Ieri proprio da Bruxelles è arrivata una bella bacchettata all'Italia per i rifiuti, ma non per quelli di Napoli, bensì di Milano. Una sentenza del 2004 ce lo imponeva, ma ancora la bonifica di tutte le discariche considerate pericolose nei dintorni di Milano non è avvenuta. Per questo la Commissione europea ha rinviato l'Italia davanti alla Corte di Giustizia. Le discariche in questione si trovano nei comuni di Pioltello e Rodano, nell'area di 300.000 metri quadrati ex Sisas, polo chimico fallito nel 2001. Delle tre vasche, solo una, considerata la più pericolosa, è stata sinora bonificata. Nelle restanti due rimangono da smaltire ancora circa 280.000 tonnellate di rifiuti industriali, che costituiscono costituiscono, secondo l'esecutivo europeo, una minaccia per l'aria e le acque locali. Enorme la cifra che dovremmo pagare se i giudici europei accogliessero le richieste della Commissione. Le sanzioni chieste alla Corte di Giustizia consistono infatti in un'ammenda giornaliera di quasi 200.000 euro dalla data della seconda sentenza della Corte, più una somma forfettaria di oltre 21.000 euro per ogni giorno trascorso dalla data della prima sentenza, emessa appunto nel 2004, fino alla seconda. Roberta Pellegatta, Radio 24 e Sole 24 Ore. Tre giorni a Napoli tornerà alla normalità, così ha promesso ieri Berlusconi, speriamo davvero che sia così, intanto proseguono i roghi. Ancora una notte di cumuli di rifiuti dati alle fiamme. Sono almeno 30 gli interventi che hanno dovuto effettuare fino a questa mattina i vigili del fuoco tra Napoli e alcuni comuni a nord del capoluogo campano. E intanto è trascorsa l'ennesima notte tranquilla a Terzigno, dove l'area del presidio dei comitati antidiscarica di Via Zabata si è affollata solo in coincidenza con la diretta della trasmissione Rai Anno Zero, dedicata proprio alla crisi dello smaltimento rifiuti. Anche questa notte sono arrivati i camion con il terreno per la messa a regime dello sversatoio. All'alba invece manifestazioni di protesta pacifiche con un numero ristretto di presenti a Giugliano, dove nel sito di Taverna del Re si devono sversare 10.000 tonnellate di rifiuti per effetto di una contestata ordinanza del presidente della provincia di Napoli, Luigi Cesaro. Una delle manifestanti è stata anche colta da malore e quindi trasportata in ospedale. Intanto questa mattina nuova riunione in prefettura Napoli per i 18 sindaci dei comuni della zona vesuviana. Al centro dell'incontro ancora in corso i tempi e le modalità per la ripresa degli sversamenti nella cava Sari di Terzigno. Paolo Picone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E noi andiamo oltreoceano, l'America infatti verso le midterm, ultimi giorni di campagna elettorale. Allora sentiamo gli umori proprio dall'America, ci colleghiamo in diretta con Gigi Donelli. Gigi. Sì, buongiorno Piera, dall'America, in particolare dalla California, dove sono in queste ore, naturalmente ora tutto tranquillo, ancora prima dell'alba, ma sicuramente la California è uno dei centri nevralgici della sfida. Bisogna sempre ricordare che quando si parla di midterm negli Stati Uniti si parla sì di rinnovo di Congresso e Senato, ma soprattutto di una miriade di elezioni locali che toccano quindi le contee, i distretti, e che fa sì che lo scenario sia estremamente complesso e variegato. Sul piano politico generale naturalmente continua la campagna dei grandi, Virginia per il presidente Obama, Nevada per McCain, insomma un viaggio continuo per convincere fino all'ultimo minuto e cercare dal punto di vista democratico naturalmente conservare un vantaggio o quantomeno di ridurre la perdita attesa naturalmente da tutti gli analisti. Ecco, dicevi appunto, sei in California, una partita importante quella che si gioca il 2 novembre in particolare in questo stato. Sì, qui ci sono, è proprio un classico esempio insomma della grande passione per la democrazia diretta, infatti c'è sì le sfide tra i protagonisti, ma ci sono anche tutta una serie di proposte locali o di quelle proposition che in questi giorni tra l'altro stanno facendo anche parecchio colore nel mondo, in particolare quella della cosiddetta proposition 19 per la liberalizzazione della marijuana, un tema che in realtà viene sostenuto da diversi anni in questa parte del mondo e che ha visto anche il sostegno diretto rinnovato di George Soros, che proprio mentre venivano mandati i primi spot di questa campagna in favore della liberalizzazione sosteneva con $1 milione il progetto. Bisogna dire che c'è una situazione anche un po' curiosa, nel senso che da una parte questa campagna viene sostenuta proprio da ambienti più conservativi che tendono a vedere i grossi vantaggi legati alla tassazione del prodotto, mentre dalla parte di Obama e dei democratici c'è la preoccupazione che questo, diciamo, spostamento tra virgolette, se diremmo troppo a sinistra, possa poi rivelarsi un boomerang nelle elezioni del 2012. Bisogna ricordare che la California è già stata uno stato all'avanguardia su queste materie e che ha avviato una significativa depenalizzazione per alcuni casi di patologie e sostanzialmente per l'uso antidolorifico. Assolutamente. Questa è una delle molte sfide. Grazie a Gigi Donelli dunque dalla California. Torneremo a parlare di midterm in America 24 alle 13:45. Lavoro minorile, una piaga in Asia, in Africa, ma a sorpresa anche negli Stati Uniti. Nei campi dell'America di Obama un bracciante su 10 è minorenne, lo conferma un recente rapporto di Human Rights Watch che stima in oltre 200.000 i bambini e gli adolescenti impiegati in agricoltura negli States, il tutto in una cornice perfettamente legale. Una norma del 1938 permette infatti di impiegare manodopera agricola a partire dai 12 anni, mentre negli altri settori l'età limite è 14 anni. Un progetto di riforma esiste, ma è bloccato al Congresso da oltre un anno e per ora ha l'appoggio di poco più di 100 parlamentari, la metà di quanti ne servirebbero. Intanto i campi di molti stati, dal Texas al Michigan, sono popolati da bambini braccianti, in alcuni casi anche di 8 anni. Quasi tutti latinos, con paghe più basse degli altri lavoratori e turni che non di rado arrivano a 10 ore. Purtroppo gli incidenti sono all'ordine del giorno. I ragazzi lavorano con attrezzi affilati, con macchinari, sono esposti a sostanze chimiche, portano pesi, salgono su scale alte. Le storie dei bambini braccianti d'America si possono leggere su 24, il mensile del Sole oggi in edicola assieme al quotidiano. Enrico Marro, Radio 24, il Sole 24 ore. Il consumatore o il tossicodipendente beccato con una piccola quantità uso personale di droga non sarà più soggetto alle sanzioni amministrative attualmente previste dalla legge se accetterà di sottoporsi ad un percorso terapeutico. Lo chiede il Piano d'Azione Nazionale Antidroga 2010-2013 del governo. E ci sta raggiungendo Carlo Genta, eccolo qua che entra in studio perché oggi sono partiti i mondiali di pallavolo e in campo anche le italiane. Sì, Carlo, com'è andata? Ciao Piera, vinto 3-0 facile sul velluto perché oggi l'avversario era Porto Rico, quindi niente di che per queste ragazze che hanno vinto già tutto, che difendono un titolo, che sono campionesse d'Europa, eccetera, eccetera, eccetera. L'ostacolo era basso, Porto Rico battuto in 3-7 in un'oretta, 25-20, 25-11, 25-18, quindi allunaggio soft sul pianeta del mondiale che si gioca in Giappone, lo ricordiamo. Domani sarà più dura perché c'è l'Olanda. Vabbè, speriamo bene. Grazie mille a Carlo Genta. GR24 si ferma qui, il prossimo alle 14. GR24, il Sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.